Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera viene attribuito a Milano uno dei più antichi e prestigiosi premi letterari italiani, il premio Bagutta, è proprio in corso la cerimonia mentre ci parliamo. E dunque parliamo in questa occasione di libri e di lettura per difendere naturalmente i libri e la lettura. È la passione che certo tutti noi condividiamo, una passione che può anche rasentare il fanatismo per i collezionisti più appassionati e che oggi alcuni invece giudicano messa a rischio dalla concorrenza delle nuove tecnologie del libro elettronico. Ma la fiducia nel libro, anche nel libro di carta, è sempre ben riposta, come ci spiega un esperto, Roberto Casati, che ha scritto Contro il colonialismo digitale. Istruzioni per continuare a leggere, la terza, 134 pagine, 9,50 euro. Casati non è un oscurantista o un nostalgico, semplicemente vuole capire quale sarà il futuro della lettura in un'epoca in cui la convergenza dei media ha fatto sì che ci siamo messi a leggere sullo schermo e poi a fare ricerche bibliografiche, a telefonare, a fare esercizi ginnici con le guai, a giocare, a compilare formulari, acquistare, taggare, compilare playlist, insomma delegare tutte le attività in cui viene elaborata l'informazione ad alcune altre, a un'interfaccia fatta di pixel lucenti. In parte erano attività che di par loro gareggiavano con la lettura dei libri. È così, questo Casati. E allora si chiede l'autore, leggere un libro oggi significa competere con i pixel lucenti, proteggersene o invece aderire fino in fondo alla nuova veste tecnologica? Sentiamo che risposte ci dà. Buonasera a Roberto Casati. Buonasera. Roberto Casati, una quindicina d'anni fa lei aveva pronosticato una sostanziale difficoltà per l'ebook ad affermarsi e soprattutto a sostituire il libro. Oggi lei aggiorna questa sua previsione anche alla luce dell'arrivo dell'iPad. In che senso? Beh, diciamo, la previsione era legata a un certo tipo di tecnologie che non riuscivano ad imporsi e che di fatto non sono riuscite ad imporsi, cioè delle tecnologie dedicate per la lettura del libro. Sono sempre migliorate, i lettori di ebook sono adesso a un livello tecnologico anche ergonomico molto alto, però nel momento in cui sono migliorate al punto da diventare un'alternativa interessante, sono arrivati i tablet che li hanno di fatto inghiottiti. Poi si vendono ancora dei lettori di ebook, però di fatto la tendenza è quella di vederli sostituiti, cioè se uno deve comprarsi qualcosa si compra un tablet a questo punto pensando che comunque gli permetta di leggere dei libri. Quindi quello che avevo previsto si è a metà realizzato, a metà non si è realizzato, ma la cosa importante è che ci troviamo di fronte a questo nuovo supporto che è il tablet, che non è particolarmente favorevole alla lettura, non tanto per la questione dello schermo, dell'inchiostro, ma perché è un contenitore universale che mette la lettura continuamente in competizione con altre forme di intrattenimento. Infatti lei dice a un certo punto che il tablet riforma il palinsesto della nostra vita mentale. Ecco, in questo nuovo palinsesto che spazio può rimanere per il libro e qual è la posta in gioco? Guardi, io ho visto di recente i dati che mi ha fornito Giovanni Solimine, che si è occupato molto di lettura in Italia. C'è una fascia di persone nell'adolescenza e post-adolescenza che di fatto non legge più. Non legge più per una ragione molto semplice, cioè che il tempo che prima era un tempo un po' perso negli autobus, trasporti, sale d'attesa, eccetera, è completamente colonizzato oggi da social network sostanzialmente, cioè dalla reattività continua degli stimoli di attualità che sono attualità sociale o attualità di altra natura. Ed è questo un po' che è cambiato negli ultimi anni rispetto alla lettura, cioè il libro era un oggetto di intrattenimento oltre ad altre cose, cioè era un oggetto di formazione, però questa formazione passava per il fatto che c'era uno spazio che ciascuno di noi aveva di tempo libero dedicato all'intrattenimento. Ora questo spazio di fatto viene sempre più occupato da altro, tablet o telefonino o comunque oggetti che hanno delle funzioni diverse da quelle di favorire la lettura e in quanto tali tendono ad essere competitive rispetto alla lettura. Quindi il libro ha un po'... Io penso che abbia un grande avvenire davanti per tante ragioni, però deve essere un po' aiutato e aiutato in modi un po' diversi da quelli in cui si pensa lo si debba aiutare oggi, cioè non tanto commercialmente ma quanto riservandogli dei tempi molto particolari all'interno della scuola. Io mi preoccupo soprattutto non tanto per lettori come me, io leggo su qualsiasi supporto perché ho comunque una storia alle spalle di lettore molto fortunato e molto ricco, però persone che si avvicinano alla lettura, per cui la lettura per esempio è un fattore di grande promozione linguistica, perché chi legge ha un lessico più ricco di chi non legge, devono essere protette, visto che non si legge in famiglia e che i device, questi strumenti, non servono principalmente a far leggere contenuti complessi, non certo piccoli messaggi, è la scuola che deve offrire ai lettori quello spazio protetto che permette loro di avere un rapporto lungo ed intenso con i libri. Ecco, lei però a un certo punto si interroga sulla esistenza stessa del concetto di nativi digitali. In fondo oggi si dice che la scuola non può far nulla perché ci sono i nativi digitali che non torneranno mai indietro. Ma esistono davvero questi nativi digitali? Sono davvero incorreggibili? Ma guardi, quella dei nativi digitali io adesso sono stato tra i primi a denunciarla, però vedo che comincia ad allinearsi molto anche la letteratura su questa idea. È una grossa bufala sostanzialmente, perché di fatto anagraficamente ci sono chiaramente delle persone che sono state esposte fin dalla più tenera infanzia a delle interfacce, a degli schermi sostanzialmente. Però l'idea che si cercava di far passare è che queste persone sviluppassero anche delle competenze particolari, che quindi fossero tecnologicamente più bravi o comunque dotati di una nuova intelligenza legata a quest'uso di interfacce. Quando in realtà quello che è successo, se uno va a vedere anche la storia dei computer, è esattamente l'opposto, cioè non è che c'è un cervello umano che si è trasformato perché ha interagito con i computer, si è trasformato in maniera sostanziale perché ha interagito con i computer, è l'opposto, cioè i computer sono diventati così facili da utilizzare per via di un vasto progetto di design che c'è dietro, no? Di ergonomia, che anche un bambino può usarli, cioè c'è una facilitazione dell'interfaccia, e di fatto che non ci siano i nativi digitali è provato dall'esistenza di mia madre, che a 80 anni ha preso un tablet, ha cominciato a usarlo e l'ha usato subito, cioè anche lei sarebbe una nativa digitale in questo senso. Quindi noi perdiamo molto tempo per rincorrere questo mito dei nativi digitali, in realtà abbiamo a che fare con delle persone che sono state abituate ad usare dei supporti e dai quali non hanno imparato niente di particolarmente eccitante, per cui forse bisognerebbe invece limitare la loro esposizione a questi supporti, cioè dare loro la possibilità di fare anche altro. E qui torniamo al discorso della scuola al quale lei accennava. La scuola dovrebbe rifiutare di farsi colonizzare, mi pare di capire dal suo libro, da queste nuove tecnologie, e anzi offrire, preparare delle armi di difesa. Ma io la metafora che cerco di utilizzare quando parlo di queste cose è un po' quella del coltello svizzero, no? Cioè noi ci vengono presentate le nuove tecnologie come dei coltelli svizzeri dell'educazione, che nel tablet si può fare di tutto, filmare, registrare, fotografare, ricevere, leggere, eccetera, eccetera. E per questo appunto la logica che c'è dietro è una logica di tipo sostitutivo, visto che queste cose le puoi fare con il tablet, altri tipi di pedagogia li puoi lasciare da parte. In realtà la metafora del coltello svizzero mostra direttamente il suo limite, cioè il coltello svizzero fa tutte queste bellissime cose, però nessuno si è mai sognato di sostituire tutti i suoi utensili di cucina con un coltello svizzero, nessun candidato a diventare chef potrà far valere nella sua lettera di motivazioni che sostituirà tutti gli utensili di cucina con un solo coltello svizzero per far risparmiare, perché è più comodo da portare, eccetera, eccetera. La pedagogia richiede molti strumenti diversi, come la cucina, e far transitare tutto da un unico tipo di interfaccia è sicuramente un progetto limitativo. Questo è un primo punto. Un secondo punto è che non sappiamo esattamente quale sia il progetto pedagogico che c'è dietro, cioè ci sono delle sperimentazioni sporadiche, anzi delle idee sporadiche, qualche sperimentazione poco conclusive per il momento, ma non c'è un vero progetto pedagogico. E quindi quello che io dico non è tanto di eliminare il digitale dalla scuola, assolutamente, cioè ci sono molte cose che possono essere fatte in tempi e in modi contingentati utilizzando interfacce digitali. Dico piuttosto di usare un principio di sana precauzione, cioè prima di rinunciare alle pratiche pedagogiche che conosciamo per sostituirle con un salto nel vuoto, sostanzialmente dobbiamo valutare attentamente quello che stiamo facendo. Grazie a Roberto Casati, autore di Contro il colonialismo digitale. Buona serata. Ho accennato al collezionismo di libri. Se partecipate a questa grande passione, non potete perdere il libro di Hans Tuzzi, Il mondo visto dai libri, un repertorio alfabetico per scoprire tanti aspetti di questa passione e dei maggiori capolavori che ne sono l'oggetto. Il libro si intitola Il mondo visto dai libri, appunto, è pubblicato da Schirà, 156 pagine, 15 euro. Agli appassionati segnalo anche di Barbara Schiavetta e Maria Gioia Tavoni La guida per i bibliofili affamati, pubblicato da Pendragon, 160 pagine, 15 euro. Questa è una guida alle più importanti edizioni d'arte in Italia, arricchita anche da qualche breve segnalazione che presenta le varie località in tutto il nostro paese dove si trovano questi 24 autentici artisti. Poi vi segnalo un romanzo di un autore che già conoscete perché ne abbiamo parlato in questa trasmissione, Rafael Jerusalmi, I cacciatori di libri, pubblicato da edizioni E.O., 268 pagine, 16,50 euro, e tradotto da Federica Alba. Questo è un libro ambientato nel Medioevo in cui si affronta il tema della difesa della libertà di stampa dall'oscurantismo dominante allora, un'impresa che darà vita alle alleanze più sorprendenti. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo di Massimo Birattari Leggere un'avventura, pubblicato da Feltrinelli, 176 pagine, 13 euro, con le illustrazioni di Allegra Agliardi. Anche questo è un romanzo per dimostrare la bellezza sorprendente della lettura, capace di affascinarci assai di più di qualunque altro mezzo. E qui troviamo l'esperienza di una strana versione dell'isola dei personaggi che confermerà questa intuizione. Ai genitori ricordo che a Milano, al Teatro Hof, fino all'8 febbraio, va in scena un'opera della quale i libri sono in parte protagonisti. Si intitola La donna che legge, un testo di Renato Gabrielli, la regia di Lorenzo Loris. Il testo è pubblicato dalle edizioni QE Press e costa 8,99 euro. E appunto qui abbiamo un dialogo fra due donne e uno strano signore, nella quale appunto i libri la fanno da protagonisti. Vi parlo infine di una mostra che è in corso a Milano, quella dedicata dalla Biblioteca Braidense a Cesare Beccaria, di cui l'anno scorso abbiamo ricordato anche qui in questa radio Dei delitti e delle pene, cioè l'opera sua più celebre, nel 250° anniversario della pubblicazione. Questa mostra si intitola Un laboratorio europeo, la riflessione sulla giustizia a Milano da Beccaria a Manzoni, e inserisce l'opera fortunatissima di Cesare Beccaria all'interno della lunga riflessione sulla giustizia che conduceva in quegli anni e che aveva condotto ancora precedentemente la Milano dell'Illuminismo. La mostra è aperta fino al 12 febbraio e ha un appendice alla Pinacoteca Ambrosiana dove si custodiscono importanti manoscritti del Beccaria. E in questa occasione voglio segnalare un libro che completa la conoscenza di questo grande intellettuale milanese, che non fu soltanto esperto di giustizia. Il libro è quello di Carlo Scognamiglio Pasini, un noto economista, ex presidente del Senato. Si intitola L'arte della ricchezza, Cesare Beccaria, economista, è pubblicato da Mondadori, 328 pagine, 22 euro. Scognamiglio ricorda in apertura del libro la definizione che Schumpeter diede di Beccaria, cioè dell'Adam Smith italiano. Purtroppo il contributo di Beccaria agli studi economici è stato piuttosto trascurato, oscurato anche dalla grandezza e dal successo che ebbe quel libretto sulla giustizia. Allora qui Scognamiglio fa un'analisi del pensiero dell'economista Beccaria basandosi sulle sue opere principali, innanzitutto uno scritto sui disordini e i rimedi delle monete nello Stato di Milano nel 1762 e un'opera postuma, Gli elementi di economia pubblica, che fu pubblicata nel 1804. E poi Scognamiglio esamina molte carte, molti documenti finora ignoti, anche relativi alla importante attività amministrativa e politica che Beccaria svolse. In questa attività Beccaria ebbe delle notevoli intuizioni e fece delle grandi innovazioni. Scognamiglio ce le ricorda, per esempio propose di introdurre il sistema metrico decimale, propose di istituire il primo monte, cioè la prima banca per il credito industriale, abolì le corporazioni, cioè il regime restrittivo della libertà di impresa e di lavoro, propose la creazione di una cassa di solidarietà operaia e un programma di lavori pubblici per contrastare gli effetti della crisi dell'occupazione, e poi si occupò anche di riforme monetarie, come vedete, temi dei quali continuiamo anche a discutere. E tutto ciò rovescia naturalmente l'immagine del Beccaria che ci è stato tramandato dalla storia, un Beccaria che dopo il successo del suo libretto sulla giustizia secondo una certa leggenda, diventò quasi un essere inutile che non si occupava più di nulla. Scognamiglia lo definisce pigro, indolente, indifferente all'interesse generale, tanto, aggiunge, da potersi persino mettere in dubbio che fosse davvero l'autore di un capolavoro come Dei delitti e delle pene. E invece no. Beccaria rimase molto vivace, molto propositivo e molto illuminista, molto riformatore, e questa biografia di Scognamiglio ce lo dimostra, ricordandoci che Beccaria fu professore di economia e, appunto, come dicevo prima, funzionario pubblico. In pratica, dopo la riforma di Giuseppe II, diventò ministro a Milano del commercio, dell'artigianato, delle manifatture, dei pesi e delle misure, e in questa veste, appunto, abolì le corporazioni, ne abolì quasi 50, rimasero in vita solo quelle degli speziali e degli orefici, corporazioni che furono sostituite dalle camere di commercio e dalle camere mercantili. Quindi fece una riforma per liberalizzare l'attività economica molto in anticipo rispetto anche a quello che avrebbe poi fatto la rivoluzione francese. Insomma, Beccaria fu un vero antesignano e per questo Scognamiglio ci ricorda che il suo contributo è stato quello di elevare l'attività umana del lavoro a un ruolo centrale nello sviluppo delle condizioni economiche e sociali in una società progredita. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il 27 gennaio cade il giorno della memoria, nella quale facciamo appunto memoria della Shoah, e in questa occasione escono sempre molti titoli. Ne ho selezionati alcuni che adesso vi presento. Innanzitutto il libro di Peter Lantos, che è un grande scienziato, un neurologo di fama mondiale, ungherese d'origine e inglese d'adozione, che ci racconta la doppia persecuzione subita come ebreo, prima dal regime nazista che lo internò bambino a Bergen-Belsen e poi da quello stalinista che pure non mancò di vessare gli ebrei. Il libro si intitola Tracce di memoria, il mio viaggio nell'Olocausto e ritorno, è pubblicato da Giunti, 288 pagine, 14,90 euro, ed è tradotto da Roberta Zuppet. Nel libro l'autore rievoca la sua esperienza, ma soprattutto illustra l'impegno sentito quasi come un dovere, come una soluzione all'angoscia che non l'aveva mai più abbandonato, a ritrovare e a documentare i passaggi della persecuzione che ha segnato lui e la propria famiglia. Una testimonianza luminosa della persecuzione razziali è quella di Edith Stein, morta ad Auschwitz e poi canonizzata. Si era convertita infatti nel 1921 al cattolicesimo, e su di lei è uscito un libro che si intitola appunto Edith Stein, di Conrad de Master, un carmelitano belga. Il sottotitolo è Sete della verità, è pubblicato dalle Pauline, 82 pagine, 10 euro, e è tradotto a cura dell'abbazia Mater Ecclesiae dell'isola d'Orta. La Stein non rinunciò mai a rivendicare le proprie origini ebraiche, che le valsero appunto la vita, e i vescovi olandesi avevano protestato contro le persecuzioni agli ebrei, e per rappresaglia i tedeschi arrestarono tutti i religiosi ebrei cattolici il 2 agosto del 42. Pochi giorni dopo la Stein sarebbe morta ad Auschwitz. Poi vi segnalo le memorie di un nome noto, di un comico famoso, Joelle Dix, Quando tutto questo sarà finito. Sottotitolo Storia della mia famiglia perseguitata dalle leggi razziali, pubblicato da Mondadori, 152 pagine, 16,50 euro. La famiglia del giovane David, questo è il vero nome dell'attore, David Ottolenghi, è colpita all'improvviso nel 1938 a Milano dalla proclamazione delle leggi razziali, e in queste pagine troviamo proprio un sentimento molto diffuso in quei mesi, in quegli anni, cioè l'incomprensione quasi totale di quello che stava veramente succedendo da parte degli ebrei, che cosa si sarebbero dovuti aspettare. Il padre infatti continua a lavorare grazie a un sotterfugio e alla protezione del proprietario dell'azienda presso la quale lavora. Vicino a questa azienda a Como la famiglia andrà ad abitare, e da lì poi nei mesi della Repubblica di Salò la famiglia riuscirà a fuggire in Svizzera. La sorte in fondo sarà benigna con la famiglia Ottolenghi, ma soprattutto il padre resterà segnato irreparabilmente, come ci spiega questo libro, da quell'esperienza sulla quale con il figlio si lascerà scappare successivamente in tanti anni soltanto una frase, quasi a rimuovere dalla storia della famiglia quell'esperienza sconvolgente. La storia del popolo ebraico è raccontata da un grande storico inglese, Simon Shama, nella Storia degli ebrei. In cerca delle parole dalle origini del 1492, pubblicato da Mondadori, 582 pagine, 30 euro, ed è tradotto da Massimo Parizzi. Questo è un altro libro di Sciama che nasce da una fortunata serie televisiva, la BBC, e dunque copia il rigore storico con il gusto della grande divulgazione e con la partecipazione alle vicende di un popolo straordinaria che così vengono riassunte da Sciama. La storia degli ebrei è stata tutto tranne che banale. Ciò che gli ebrei hanno vissuto e sono in qualche modo sopravvissuti per raccontare è la versione più intensa nota alla storia umana di avversità subite anche da altri popoli. Una versione che parla di resistenza perenne di una cultura al suo annientamento, di ricostruzioni di case e habitat, di una prosa e poesia della vita scritte nel succedersi di sradicamenti e aggressioni. È questo a rendere tale storia particolare e universale a un tempo, eredità comune di ebrei e non ebrei allo stesso modo, un'immagine della nostra comune umanità. In tutto il suo splendore e la sua degradazione, le sue ripetute tribolazioni e la sua infinita creatività, la storia degli ebrei rimane, per tanti e tanti versi, una delle grandi meraviglie del mondo. Poi vi segnalo il libro di un autore tedesco molto popolare, David Safir, che si intitola I ragazzi del ghetto. È pubblicato da Spelling & Kufer, 376 pagine, 17,90 euro, ed è tradotto da Linde Nadiani. Questa è la storia di una ragazza che si trova a Varsavia nel 1942. Qui è all'interno del ghetto, della cui rivolta sarà poi una delle protagoniste. Successivamente la ragazza si unirà alla resistenza e per 28 giorni si rivelerà capace, con alcuni suoi compagni di resistenza, a mettersi in salvo dai nazisti. Sarà la più lunga resistenza degli ebrei al nazismo. Infatti un suo amico nota alla fine del libro: abbiamo resistito più tempo della Francia. E la ragazza gli ricorda che per lei c'era una cosa molto più importante: avevamo salvato delle persone da quell'inferno. E quindi conclude: quell'esperienza non era stata masada l'episodio in cui il popolo ebraico aveva resistito ai romani, in cui tutti, guerrieri, donne e bambini, erano morti per continuare a vivere nella leggenda. Qui qualcuno era sopravvissuto. E a questo punto il confettino. Doppio confettino adesso per segnalare L'ora blu delle fiabe di Ilse Herlinger Weber, Nel ghetto di Theresienstadt, pubblicato da Pauline, 160 pagine, 15 euro, tradotto da Rita Baldoni. Qui troviamo 20 fiabe ebraiche della scrittrice per bambini, nata nel 1903 e poi internata appunto in questo lager, dove la Weber si sarebbe occupata dei bambini malati, per i quali inventa sempre nuovi racconti e nuove fiabe, e poi dal campo sarebbe stata trasferita in un'altra località senza fare ritorno a casa. È interessante il progetto che è alla base di questo libro, perché le fiabe sono illustrate dagli studenti del liceo Leonardo da Vinci di Civitanova Marche sotto la guida di Maurizio Bavetti. Poi vi segnalo di Irene Cohen-Janka e Maurizio Quarello L'ultimo viaggio, il dottor Korczak e i suoi bambini. È pubblicato da Orecchio e Cerbo, 16,90 euro, ed è tradotto da Paolo Cesari. Questa è la storia vera e commovente di un medico polacco, appunto il dottor Korczak, che fu protettore di bambini poveri e orfani, fu un pediatra e un educatore d'avanguardia. E anzi, proprio alle riflessioni e alle pratiche del dottor Korczak si è ispirata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata approvata dall'ONU nel 1989. A un certo punto il dottor Korczak è rinchiuso, si trova rinchiuso anche egli con un gruppo di bambini, di orfani, nel ghetto di Varsavia. Non vorrà abbandonarli e da lì accompagnerà questi bambini al lager di Treblinka. Il dottore era famoso per le fiabe, per le novelle che scriveva per i suoi amici, e queste sono riproposte da Progedit nel libro Re Matteuccio I, il re bambino, illustrato da Massimiliano Di Lauro e curato da Barbara De Serio, 52 pagine, 16 euro. Proprio la bandiera di Re Matteuccio apriva il corteo dei 192 bambini e dei 10 adulti che era guidata appunto dal dottor Korczak dal ghetto e che fu caricato poi sul treno per Treblinka. Agli educatori ricordo di Patrizia Marzocchi ricordare Mauthausen, antisemitismo, razzismo, bullismo, diverse facce dell'intolleranza ieri come oggi, pubblicato da Gruppo Editoriale Raffaello, 168 pagine, 8,30 euro, ed è questo un romanzo per ragazzi completato da un'appendice di documentazione e attualizzazione e un fascicolo di proposte di lavoro per la scuola curate da Valentina Carella. Prima di salutarci ricordo che il 31 gennaio ricorre il centenario della nascita di una grande figura dell'ascetismo e della spiritualità del Novecento, Thomas Merton, che troviamo nel libro omonimo con il sottotitolo Il sapore della libertà di Antonio Montanari, Maurizio Renzini e Mario Zaninelli. È pubblicato dalle Paoline, 178 pagine, 15 euro. Merton era nato in Francia da genitori, uno americano e l'altra la madre neozelandese, sarebbe presto tornato negli Stati Uniti, avrebbe molto viaggiato, si sarebbe avviato agli studi fino a farsi battezzare nel 1938. Nel 1941 entrò in un'abbazia trappista del Kentucky e lì avvia un'attività pubblicistica punteggiata anche da grandi successi editoriali, grazie anche all'impegno conclamato per la pace. Merton morirà nel 1968 durante un viaggio in Thailandia, e il percorso contemplativo di questa grande figura della spiritualità del Novecento è considerata una dei più significativi nella Chiesa del secolo scorso. Scrivono infatti gli autori che Merton era convinto che vivere bene la propria vita significa conoscere e apprezzare qualcosa del segreto, del mistero che è in me, ciò che è incomunicabile, che al tempo stesso è e non è in me, che è insieme in me e fuori di me. Da questo santuario devo cercare umilmente e pazientemente di tenere lontane tutte le intrusioni della violenza e dell'affermazione di sé. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.